silu svih svjetova, dova Ibrahimova. Ti silu svih svjetova, dova Ibrahimova. I vi jesti saova, Ahmede Muhammede. I vi jesti saova, Ahmede Sili svjetlost.